La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Come sempre staremo insieme un'ora per farvi sentire tutto il cinema che c'è. Fra gli arrivi più freschi abbiamo scelto tre proposte, ma andiamo subito al sommario della puntata. È il momento dei titoli di testa. Da fascinoso vampiro a ventenne tormentato, il protagonista di Twilight, Robert Pattinson, torna nelle sale italiane con Remember Me, dramma giovanile, sullo sfondo della New York pre-11 settembre. Happy Family, surreale, colorato e divertente. È il ritorno di Gabriele Salvatores alla commedia, ambientata fra le vie del centro di una Milano da girare in bicicletta, con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e Margherita Bui. John Travolta e Robin Williams, amici in carriera con due bambini fra i piedi. È Daddy Sitter, il family movie che mette insieme i due grandi attori, amici da 30 anni. A 70 anni, l'elefantino Dumbo plana con le sue grandi orecchie nelle videoteche italiane. Rivive in DVD e nello splendore del Blu-ray il film Disney che ha commosso intere generazioni. Dan! Wow! Nicky! Non la vedi da 7 anni. Non so da dove cominciare, Dan. Ho dei figli? Gemelli! Se devo essere il vecchio papà, tu sarai lo zio Charlie. Noi possiamo farcela. Noi. E quella che abbiamo sentito è una clip del film Daddy Sitter, commedia Disney, che vede per la prima volta insieme la coppia John Travolta-Robin Williams. Da qui vogliamo iniziare il nostro viaggio nelle nuove pellicole in sala da questo fine settimana, ed è collegata con noi Chiara Pizzimenti, che ha appena finito di vedere questo film. Con quali risultati, Chiara? Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, ho appena visto il film con John Travolta e Robin Williams, vi racconto qualcosa. Loro sono Charlie e Dan, sono due vecchi amici, soci in affari, scapoli e felici di esserlo. Qualcosa però arriva a turbare questo equilibrio. Come avete sentito nella clip, Dan scopre di essere il padre da ben 7 anni di una coppia di gemelli, un maschio e una femmina. La ex gli aveva tenuto tutto nascosto e ora è addirittura costretta ad affidare al neo papà i figli per 2 settimane. Dan ovviamente coinvolge Charlie e i due sono costretti a barcamenarsi fra un importante affare e i ragazzi, dunque l'ufficio, però anche il campeggio e una lunga serie di imprevisti, compresa un'incursione allo zoo che sentiamo adesso. I miei figli sono là dentro. Mi piace, lo zoo chiude alle 3. Oh, siamo entrati nel recinto dei gorilla. Non fissarlo, non guardarlo negli occhi. Oh, via, via, via, via. Allora Chiara, questo Daddy Sitter, che in originale ricordo si intitola Old Dogs, non ha raccolto esattamente gli entusiasmi della critica. I più benevoli l'hanno bollato un po' come una commediola leggera, con un senso di sprezzo sulla parola leggera. Altri hanno parlato di un film non all'altezza delle carriere di Travolta e Williams. Peraltro ricordo che non sono sempre state carriere dove le pessime scelte sono mancate. Ma insomma, a te com'è sembrata questa commedia? È effettivamente una commedia leggera, un film per famiglie, diciamo fatto in famiglia, perché Robin Williams e John Travolta sono amici da 30 anni e nel film, oltre a Travolta, ci sono la moglie Kelly Preston e al debutto, per la prima volta sullo schermo, la figlia Ella Blue. Nel film Disney trionfa l'amore paterno e filiale, però è una commedia che non ha niente di originale. La storia, con qualche variazione, è quella di Tre uomini e una culla e di tanti altri film. E tutto si gioca su delle gag, su delle situazioni comiche create appunto attorno ai due protagonisti, ma sono situazioni già viste troppe volte e anche il carisma dei due, diciamo, non aiuta, non c'è tanto. C'è l'incontro con i Boy Scout, con una comparsata di Matt Dillon, ci sono i lavori in casa, tutte situazioni che portano a, diciamo, gag divertenti, le comiche, ma niente di più. Si trascorre un'ora in tranquillità sfiorando un pochino la noia, ma questo è il parere di chi ha visto con me poco fa il film in sala. Non un gran film, però abbastanza carino, insomma, trascorre un'ora e mezza piacevolmente. Mi è piaciuto perché ha fatto ridere. Simpatico e costruttivo. C'era l'aspetto del padre che ha dovuto imparare a farlo. Mi è piaciuto abbastanza, anche se mi è sembrato un film un po' ripetitivo. Sembrava un po' un film già visto, insomma. Perché è proprio leggerino, fa ridere, divertente, passa bene. E grazie allora alla nostra Chiara Pizzimenti che ci ha raccontato Daddy Sitter. A risentirci, Chiara. Ciao Franco. Benissimo, benissimo. Lasciamo Chiara Pizzimenti. Noi andiamo a dare un'occhiata, dopo questa che è la prima proposta di questo fine settimana, alla classifica del box office, dove continua l'andamento straordinario in vetta di Alice in Wonderland, che è arrivato a qualcosa come 25 milioni di euro raccolti nell'arco di 3 settimane praticamente. Non siamo dalle parti di Avatar, ma insomma poco ci manca, anche se probabilmente non ci sarà, non essendoci stato il numero di copie di quel livello alla prima, alla seconda settimana, il film potrebbe, diciamo, affievolirsi un po', ma siamo ben oltre probabilmente quanto ci si poteva aspettare. Secondo posto per Mine Vaganti di Ferzan Özpetek. Tra l'altro i dati, questi sono dati relativi allo scorso fine settimana. Nel corso del weekend c'è stato un giorno, se non sbaglio mercoledì, nel quale Mine Vaganti ha superato Alice in Wonderland, quindi aspettiamoci nelle prossime classifiche che verranno fuori lunedì mattina di trovarlo ben avanti il film di Ferzan Özpetek. Terzo posto per una new entry, It's Complicated, è complicato, commedia di Nancy Meyers con Meryl Streep e Alec Baldwin e anche Steve Martin, ricordiamolo. Poi al quarto posto Martin Scorsese con Shutter Island, che ha già portato a casa un totale di 5 milioni e mezzo di euro. Segue Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Il ladro di fulmini, che non ha cominciato proprio in maniera scoppiettante, da quello che almeno ci si poteva aspettare. La si era ribattezzata un po' come una sorta di controsaga alla Harry Potter. Segue ancora Fuori controllo, nuova entrata anche questa, sesto posto, incasso modesto per questo thriller di cui abbiamo parlato settimana scorsa e che ci era piaciuto abbastanza tutto sommato, con Mel Gibson protagonista. E poi ancora voglio segnalare, perché ne parleremo poi con Gabriele Salvatores del buon momento della commedia italiana, anzi ne parleremo con Diego Abatantuono a dire la verità, con l'ottavo posto di Genitori e figli, Agitare bene prima dell'uso, di Giovanni Veronesi, che è già arrivato a 8 milioni di euro. Che fine ha fatto Avatar? E ancora nella top 10, sebbene solo decimo, con 65 milioni di euro incassati dall'inizio del suo sfruttamento. Pensate che da talmente tanto tempo in sala che sta per arrivare in DVD e Blu-ray, ma ne parleremo ovviamente nelle prossime settimane qui alla Rosa Purpurea. Mi chiamo Effe Colanzi, ho 38 anni e non ho mai fatto niente in vita mia. Voglio scrivere un film, meglio, un film d'autore, che però incassi. Mancherebbe l'idea, ma... È lui il protagonista di Happy Family, il nuovo film di Gabriele Salvatores, un Fabio De Luigi in versione sceneggiatore in crisi creativa, che vede materializzarsi letteralmente davanti ai suoi occhi i personaggi della propria storia, personaggi in cerca d'autore, si potrebbe dire, e interagisce con loro diventando a sua volta protagonista della stessa vicenda. La vicenda di due famiglie assai diverse che si incrociano fra loro perché? Perché i rispettivi figli quindicenni vogliono niente meno sposarsi. La cena del grande annuncio diventa il pretesto per l'incontro fra due culture ed estrazioni sociali assai eterogenee. La famiglia della promessa sposa, Marta, emo punk con il cannaiolo papà Abatantuono e mamma Carla Signoris in crisi di mezz'età, e quella di Filippo con papà Fabrizio Bentivoglio, avvocato e malato grave, e mamma Margherita Bui, tendente al borghese, e soprattutto Caterina, 27 anni, sorella di Filippo, di cui il narratore De Luigi finirà per innamorarsi. Posso dirti una cosa? Mi era sembrato di capire che ero io la protagonista femminile, carina, un po' complessata, che mi sarei innamorata di qualcuno. Ma allora, scusa se mi permetto, ma la storia della cinese, ma che c'entra? È che sono ancora all'introduzione, no? Sto creando i presupposti, disegnando i personaggi, però poi vedrai che la cinese... Sì, ma è da un casino che non si parla di me. Ti confermo. Questa scena della cinese mi sembra messa lì proprio per strappare una risata. Beh. Meno male che dovevamo fare un film d'autore. Perché io allora ho detto due robine all'inizio e poi stop, finita lì. Ragazzi, calma però, concordiamo anche noi, eh? D'accordo. Bene. Che siamo personaggi. Bene. Di secondo piano, senza nemmeno un nome. Ma un minimo di sviluppo potremmo averlo, no? Un film molto particolare questo di Gabriele Salvatores, nei modi espressivi prima di tutto, sospesi fra surreale e romantico. Salvatores aveva già esplorato il surreale in film come Nirvana e Denti, tanto per fare un paio di esempi, ma al servizio ora della fantascienza, ora del grottesco. La componente romantica di questo film, un romanticismo che si riversa anche su una bellissima Milano dipinta con pennellate magistrali, è la principale novità di questo lavoro, specie se si considerano i suoi film immediatamente precedenti. Ma anche nella forma narrativa, una prima ora dentro e fuori dalla realtà di Ezio, lo sceneggiatore in crisi, e quella dei suoi personaggi, poi un improvviso stop, titoli finali che cominciano a scorrere e il finale vero che invece arriva dopo. Un finale aperto, dove quel che fino a quel momento sembrava fantasia incontra il terreno della realtà. Interessante quindi e stilisticamente coraggioso questo Happy Family, che poi sia del tutto riuscito è un altro paio di maniche. Per assurdo sembrano funzionare meglio le parti teatrali, tratte dalla commedia omonima e progenitrice di Alessandro Genovesi, di quelle aggiunte per il film, a volte un po' slegate. Ma l'apporto degli attori, un cast di razza che affianca i fedelissimi di Salvatores, mette insieme appunto una bellissima e brava Valeria Bilello, è decisivo per spostare il giudizio sul film su un terreno positivo. Prima di tagliare la torta vorrei fare un annuncio. Immagino sappiate già di cosa si tratta, ma vorrei dirlo a voce per ufficializzarlo. Filippo, aspetta. Lascia Marta, lo dico io. Sono io l'uomo. Io non voglio sposarti. Cosa? Io non voglio sposarti. Non mi sento pronta. Ma scusa, eravamo d'accordo? No, io non ero d'accordo. Hai fatto tutto tu, Filippo, come al solito. Ti metti in testa una cosa e quella deve essere legge. Qualsiasi cosa. Se io voglio andare al cinema, per esempio, a vedere un film, lui dice che è una stronzata e dobbiamo andare a vedere quello che vuole lui. E quello che vuoi tu mi fa cagare. Perché mi fai cagare tu e i tuoi gilerini fatti a mano. Abbastanza perentoria la ragazzina, come avete capito Marta e Filippo non si sposeranno. Fra poco le interviste a Gabriele Salvatores e Diego Abatantuono, prima però apriamo la finestra sul nostro DVD Game, il gioco che ogni settimana vi fa vincere splendidi film in DVD e Blu-ray. Ascoltiamo la prima traccia del film misterioso di oggi che dovrete indovinare scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it. E così voi tre vorreste rischiare la vostra vita insieme alla mia? Certamente. I cani da caccia non seguiranno il loro padrone se si ritira. Se vi dimostrate debole, diventerete voi la nostra preda, signore. Se è così, abbaiate i miei cani da caccia. Capolavoro assoluto della storia del cinema, diretto da un grande maestro, diciamo uno dei 10 più grandi nomi della storia del cinema, insomma un indizio tanto per aiutarvi. Vi ricordo ancora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it più tardi. Un'altra possibilità. When strings are ripe and swelled with rain. Torniamo sulle note di April Come She Will di Simon & Garfunkel a parlare di Happy Family, un film che rappresenta, dicevamo, un doppio ritorno per Gabriele Salvatores. Da una parte un ritorno alla commedia, dopo film intensi e drammatici come Io non ho paura e il recente Come Dio comanda. Dall'altra un ritorno a Milano, la città che l'ha formato e lanciato, una città con la quale il rapporto del regista è controverso. Come tutte le cose forti, le odi e le ami insieme. Milano è un po' così per me, l'ho amata e la ringrazio per tutto quello che mi ha dato negli anni 60 e 70, mi ha permesso di cominciare a fare teatro e poi cinema, eccetera. Quindi da una parte l'amo e da una parte la odio, nel senso buono del termine, come succede anche con le persone, per certe sue chiusure a volte, per certe sue freddezze. Milano ha un fascino molto nascosto, molto segreto, e questo mi piace però. Ce la devi un po' scoprire, è una città di interni nel senso più ampio del termine, non solo di interni architettonici ma anche di interni dell'anima. Parliamo della musica, parliamo prima di un'altra cosa molto interessante, questa felicità, Happy Family. La famiglia a cui si riferisce il film non è certo solo una delle due famiglie protagoniste, ma è in realtà la famiglia anche degli spettatori, di tutti quelli che sono partecipi del film. È un modo, diciamo, di dire quello dell'Happy Family che sposa appunto con una città, come abbiamo sentito anche da Salvatores, dura come Milano. Come si può essere felici a Milano? Sentiamo Salvatores. Innanzitutto c'è da dire che sì, è vero, ci sono due famiglie protagoniste, però non è un film sulla famiglia, è vero, è un film su queste cose di cui stiamo parlando, ed è verissimo che la felicità città a Milano è particolare. C'è una canzone che mi ricordo sempre bella: sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Allora ci si può innamorare a Milano, è strano sentirsi innamorati a Milano, è vero, però questa è una sua particolarità. Se mentre ti baci ti sta piovendo addosso e sei appoggiato a un muro e poi ti ripari in una trattoria a bere un bicchiere di vino vicino a una stufa, beh, insomma, è bello anche quello, è romantico anche quello. Ma che roba il mare, oh? Pensa che c'è da sempre. Cioè? No, dico, il mare esiste da sempre. E quindi? Tu ci hai mai pensato che al mondo ci sono cose che vivono molto più di noi? Le case, per esempio. Guarda che le case durano un sacco di tempo. O le strade. Prova a pensare alle strade costruite nell'antica Roma che sono lì ancora adesso. Ma anche le sedie. Io a casa ho delle sedie che avranno 300 anni. Pensa quanti culi hanno visto passare. Una delle battute, uno dei momenti più divertenti del film, questo duetto in pieno mare, in mare aperto, fra Diego Abatantuono e Fabrizio Bentivoglio, partiti da posizioni molto distanti e finiti per amicizia in barca in mezzo all'oceano. Tra l'altro una coppia che si riunisce dai tempi, insomma, del famoso trittico di commedie di Salvatores, Marrakesh, Tournée e Mediterraneo. Il tono della recitazione del film è sempre pacato, quasi astratto. Per Diego Abatantuono è tutto merito di un personaggio sereno. Beh, insomma, il bello degli attori è che ogni tanto cambiano un po' anche il registro. Questo film, il mio personaggio richiedeva quel tipo di flemma, non per niente è uno che si fa una canna dietro l'altra, non per niente è secondo me il più leggero, il più, forse anche il più positivo tutto sommato, credo soprattutto per via del fatto che fa il lavoro più bello. Alla domanda che lavoro fai, lui risponde che fa lo skipper, nel senso che consegna dei ricchi delle barche, e le barche che comprano i ricchi in genere sono molto belle e vanno sempre in posti molto belli. Resta il fatto che lui vive sulle barche dei ricchi non essendo ricco, fa la cosa più bella, cioè il raggiungimento di una meta bellissima, e poi cambia barca, torna a casa, fa un lavoro in qualche modo per lui ideale, ha trovato questo equilibrio di non fumare le sigarette, perché lui non fuma le sigarette, ma si fa qualche cannetta e questo lo rende sereno, evidentemente, in quel caso, nel suo caso, fa bene. Happy Family cerca il ritrovato pubblico della commedia italiana, che in questa stagione ha incontrato, come abbiamo visto prima anche dalle classifiche, numerosi successi, da Virzì a Veronesi, da Verdone a Ozpetek. Il cinema italiano sembra avere finalmente realizzato che il tono migliore con cui sa raccontare la nostra società, o almeno quello in cui siamo più bravi, è proprio la commedia. Abatantuono. Diciamo da sempre, io sostengo la commedia all'italiana. Secondo me era il nostro fiore all'occhiello, i film più belli che ho visto in vita mia sono le commedie italiane, dalla Grande Guerra a Una Vita Difficile, Scola, Monicelli, Risi, Germi, Signori e Signore, insomma film straordinari dove tu passavi dall'ilarità al pianto in brevissimo tempo. Eravamo quelli più bravi a farli. A un certo punto non si è capito come mai, di colpo far ridere è diventato una specie di reato. E una sorta di nuovi intellettuali, registi, sceneggiatori hanno un po' snobbato quel cinema stabilendo che non era di qualità. Una risata ti impediva di partecipare a un festival o di vincere un premio. L'idea che adesso siano tornati a pensarla così, facendolo anche meglio, perché il fatto di pensare che fosse giusto fare la commedia non voleva dire che andava fatta male, voleva dire che andava tentata. Ma è un genere che io amo molto e che non sanno fare... Eravamo bravi e siamo ancora bravi a farlo. Parlavamo della musica, sentendo proprio questa splendida canzone April Come She Will di Simon & Garfunkel. Salvatore ci spiega perché la scelta di questo straordinario binomio di autori musicali degli anni 70. Ci ho pensato a lungo su questo, non è stato facile. Io volevo fare un film dove la musica non ci fosse musica da commento, cioè musica scritta per il film, proprio per sottolineare questo aspetto di finzione, di messa in scena che il film. L'autore della sceneggiatura inventa la sua storia con tutto quello che c'ha in casa, quello che c'ha a disposizione, fa un film fatto in casa, appunto. E gli è rimasto solo questo disco. Allora poteva essere però di autori diversi. Simon & Garfunkel hanno una rotondità nella musica, le loro canzoni sono dolci, malinconiche e rotonde, ma soprattutto hanno delle parole, per chi riesce a seguirle, che si adattano molto bene addirittura alle situazioni, alle singole scene del film. Dicono cose tipo: tutto si svolge nello spazio tra un ciao e un addio, lei è paragonata a una farfalla che in April come she will, ma September she must die, però poi ritornerà la primavera. C'è un senso della vita malinconico ma dolce. Eccoci di nuovo, La Rosa Purpurea, a parlare di Remember Me. Stiamo ascoltando uno dei brani della colonna sonora del film che riporta nelle sale Robert Pattinson, ovvero l'Edward Cullen di Twilight, idolo delle teenager di tutto il mondo. Tra l'altro gli è appena stata dedicata una statua di cera al museo di Madame Tussauds a New York. Per introdurre questo film penso che la cosa migliore sia citare la rivista Rolling Stone, che si chiede: c'è vita oltre Twilight? Perché in fondo questo è il principale motivo di interesse di questo dramma giovanile: capire se i protagonisti della saga vampiresca possano o meno essere considerati attori a tutto tondo, o se vivano solo dentro quella storia e quei personaggi che li hanno lanciati. E se Kirsten Stewart ha scelto la via del rock movie, The Runaways, per uscire dal ruolo della Bella di Twilight, Robert Pattinson rimane attaccato ai tormenti post-adolescenziali del vampiro Edward Cullen anche in questo film drammatico, Remember Me, che riserva non poche sorprese. Tu hai una figlia che ha la convinzione profonda di non piacerti. Lei sta cercando di comunicare, sta parlando. Ma perché tu non ascolti? Perché non le presti nessuna attenzione? Perché lei non è per te la cosa più importante, almeno per una sera? Le voglio bene. Tu parli tanto di amare, di voler bene, ma non hai nessuna idea di che cosa vuol dire sul serio. Forse non ce l'ho. E forse non ce l'ha neanche Caroline. Dio ha provveduto a crearle il suo mondo e anche il tuo. Questo non significa che puoi frantumarlo ogni volta che pensi di avere cose più importanti da fare. Ma chi credi di avere davanti? Hai pedalato fino a qui su una bicicletta. Dio santo, tu non ti preoccupi di niente. Non sei responsabile di nessuno. Sei un ragazzino. Avete sentito, Robert Pattinson è Tyler, figlio di famiglia ricca e separata di Manhattan. Il papà, Pierce Brosnan, che era impegnato in questo conflitto, è un top manager dedito a tempo pieno ai suoi affari e solo residualmente e distrattamente dedito ai suoi figli. Tyler non accetta questa situazione perché non si è mai ripreso dal dramma che c'è alle spalle, il suicidio del fratello, di cui Tyler incolpa il padre troppo distante. Tyler vive da bohemien in un appartamento sgarrupato e frequenta il college, coi soldi di papà, è lì che incontra Ellie, la Emily DeRevin, reduce dall'ultima stagione di Lost. Bella, bionda e tosta, e per scommessa la seduce. Che dici, se... No, stasera no. Ok. No, non significa mai, solo no stasera. Si va o no? Faccio partire il tassametro. Non significa mai. Ah, quindi il dessert prima. Per paura dell'asteroide, sì, però dare a un ragazzo da cui sembri attratta, un bacio, un secondo, prima di sprofondare nell'oscura notte newyorkese accanto a un panda che hai appena conosciuto, no, giusto. Ma anche Ellie ha un dramma nascosto che ne divora l'anima da quando aveva 11 anni e l'allontana dal padre poliziotto, Chris Cooper, Oscar 2003 per Il ladro di orchidee. Così Tyler, che aveva perso la speranza di essere davvero capito da qualcuno, ha trovato la sua anima gemella. Con lei vivrà giorni di passione e crescente serenità, scoprirà il vero senso della vita, recupererà anche un abbozzo di rapporto con suo padre, finché i segreti del passato e i percorsi della storia non verranno a presentare il conto in un finale denso di emozione. Gandhi ha detto che qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante. ma è molto importante che tu la faccia. Agente, loro cercavano di farli smettere. Va a casa. Ehi, ehi, ehi, non... Concordo con la prima parte. Remember Me è un dramma di interni ed esterni newyorkesi, sostenuto da una solida sceneggiatura, sofferta e piena di dolore, scritta da Will Fetters. Un dramma che va oltre il giovanile e ci interroga sui graffi dell'anima, su come chi abbiamo perso continui ad influenzare e a volte addirittura a guidare le nostre vite. La regia di Alan Colter, proveniente dai grandi serials come I Sopranos, per esempio, è delicata con personaggi e asciutta con le situazioni. La fotografia di Jonathan Freeman ci restituisce una New York livida, quasi presaga dell'imminente 11 settembre. La storia si svolge all'inizio del 2001. Per Robert Pattinson, missione compiuta in parte. Sicuramente il ragazzo ha qualcosa da dare, nella sua fisicità tormentata e in una recitazione sommessa che ne fa un perfetto anti-eroe e ne facilita l'immedesimazione da parte dei più giovani. Ancora però il talento è acerbo e soprattutto nelle scene madri, quelle più shakespeariane, di figlio che attacca il padre, si vede che il personaggio sfugge ancora di mano. Su Pierce Brosnan e Chris Cooper non c'è nulla da scoprire. Regge il ruolo Emily Derevin, non convince invece il doppiaggio italiano che allontana il film dal suo tono originale di dramma giovanile nei cui i personaggi si avverte sempre una sofferenza per appiattirne la recitazione in una direzione troppo convenzionale, con momenti quasi da commedia. Per farvi capire meglio, vi proponiamo una sorta di giochino, una breve scena che abbiamo isolato prima in lingua originale e poi doppiata. Sentiamola in lingua originale in inglese. My father's a Yankees fan. It has something to do with the payroll. Mm. It has something to do with significant ball playing. Right. You were a Yankees fan when you were little. You were Lou Piniella for Halloween. Just blind familial allegiance. It's before I knew went overpaid, overfed, fat. Who's fat? What Yankee is fat? Tell me. It's a metaphor. Piccola guida, si è al ristorante, il padre Tyler e la sua fidanzata Ellie e si parla di come mai Tyler tifi per gli Yankees. Tyler dice che sono grassi e super pagati e il padre ha un po' un momento di, diciamo così, di conflitto su questa questione, interviene la ragazza. Sentiamo tutto in italiano. Mio padre tifa per gli Yankees, la cosa ha a che fare col suo libro paga. Direi che la cosa ha a che fare con il loro modo di giocare. Certo. Anche tu ti favi Yankees da bambino. Ti vestivi da Lupinella per Halloween. Era per cieca lealtà familiare. E prima di sapere quanto iperpagati, ipernutriti, grassi bastardi fossero. Chi degli Yankees è grasso, dimmelo. È una metafora. Ecco, io penso e spero che abbiate sentito la differenza di registro recitativo, molto più leggero quello italiano, molto più così, vola in un'altra direzione. La profondità e la varietà delle voci originali fa trasparire tutto il disagio di questo momento, che è un momento ufficiale, ma dove non c'è tranquillità nei personaggi. Il doppiaggio è un male necessario a volte, anche quando a praticarlo sono i migliori, e spesso non riesce a portare con sé tutto il ruvido che c'è in un film. E allora abbandoniamo anche Remember Me e andiamo avanti con la seconda finestra aperta sulla DVD game di questa settimana. Ascoltiamo la seconda clip del film misterioso. Le armate nemiche. Presto, chiama Icona, chiama Ogul. Sono loro due che ci hanno tradito. Ci hanno venduto i vostri figli. Sono Taro e Giro che ci hanno attaccato. Avete sentito due nomi propri che dovrebbero anche qui farvi andare in una direzione, diciamo così, per questo capolavoro della storia del cinema. Se avete indovinato di che film si tratta, per vincere il Blu-ray di questo film, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it. Ed eccoci adesso all'appuntamento con il nostro trailer USA, la vetrina sulle anticipazioni d'Oltralpe. Andiamo a vedere, più che d'Oltralpe, d'Oltreoceano direi, visto che ci parliamo di film americani. Oggi siamo andati a pescare tra le anticipazioni del Tribeca Film Festival, il festival lanciato a New York da Robert De Niro, e vi parliamo di un film che si intitola The City Highland, un film che ha per protagonista Andy Garcia, affiancato da Juliana Margulies. È la storia di una famiglia molto particolare che per certi versi, o quantomeno per il tema di fondo, ricorda il bellissimo Segreti e bugie, Secret and Lies, di Mike Leigh. Micaela Bellisario è con noi. Allora, Micaela, qual è la trama di The City Island? Ciao Franco. Sì, come dicevi, è la storia di una famiglia che vive di fronte alla costa del Bronx, a New York, dove c'è una piccola isola che si chiama City Island. Qui abitano i Rizzo che, pur apparendo come una famiglia medio borghese, in realtà nasconde ogni componente della famiglia, nasconde un segreto che non vuole rivelare. Tutto gira intorno al padre, Andy Garcia, che fa la guardia carceraria e ha il sogno di diventare attore. La moglie è innamorata di un detenuto che fa il giardiniere a casa loro e la figlia, cacciata dal college, fa la ballerina di lap dance. Insomma, tutti hanno un segreto. Intanto in casa, come sentirete in questo passo del trailer, urlano tutti e tutti sono nervosi. Why don't we have a big home cooked dinner tonight? You know, something special. You want balloons or something? No, I don't want balloons or something. I'm just saying something nice. When don't I make it nice? Make something nicer. Make it yourself. Il riscatto, meglio, più che di riscatto, potremmo parlare di momento della verità, arriva dopo l'ennesimo provino a cui si sottopone Andy Garcia. Il provino infatti andrà male e a quel punto Vincent, che è appunto il padre di famiglia interpretato da Andy Garcia, deciderà di raccontare alla famiglia che non ne può più della vita che fa e chiede di essere sostenuto. La sua confessione scatenerà incredibilmente una serie di confessioni a vicenda di tutti i componenti della sua famiglia. In questo passo del trailer sentirete l'ultimo provino di Andy Garcia che chiaramente andrà male. I'm sorry. Are you doing a Marlon Brando impression? Ebbene, queste erano le ultime parole originali del trailer di The City Island. Il film esce negli Stati Uniti il 19 marzo. La data di uscita italiana ancora non c'è, ma certo ci aspettiamo di vederlo presto da noi. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. E quindi dopo Trailer USA noi proseguiamo e abbiamo qualche notizia, perché ci sono stati tanti contratti firmati durante la scorsa settimana con novità che riguardano molti beniamini del pubblico cinematografico. Ad esempio il sequel della commedia americana Una notte da leoni, è stato il film più divertente della scorsa stagione, adesso disponibile anche tra l'altro in Blu-ray e DVD, entrerà ufficialmente in produzione a novembre, quindi c'è già un sequel che ci aspetta. La pellicola, diretta ancora da Todd Phillips con Bradley Cooper, Ed Helms e Justin Bartha, è passata quasi inosservata in Italia al cinema, attenzione, perché ha incassato poco più di 600.000 euro, ma insomma era una commedia davvero molto molto divertente. Negli Stati Uniti ha beccato qualcosa come 273 milioni di dollari di incasso, forse qualche problemino se fossi il distributore del film in Italia me lo sarei posto. E Phillips, tra l'altro, pensate, ha reso noto di voler realizzare il sequel in 3D, e quindi avremo forse ricorderete la scena della tigre nel bagno con Mike Tyson, e questo è uno dei momenti più surreali del film, insomma in 3D potrebbe avere il suo perché. Poi invece parliamo dei Fantastici 4, perché? Perché uno dei suoi protagonisti, Chris Evans, che era l'ex torcia umana dei Fantastici 4, cambia supereroe e sarà niente meno che Capitan America nel film di Joe Johnston nelle sale nella primavera del 2011, lo ha detto l'Hollywood Reporter. Tra l'altro Capitan America è un totale idolo, diciamo così, nel pubblico americano. In Italia è stato sempre un supereroe un po' meno di successo rispetto all'Uomo Ragno, ai Fantastici 4, a Superman, ma Capitan America per gli Stati Uniti e per il pubblico americano è davvero un grande personaggio. E voglio chiudere con un'altra notizia, perché Tim Burton ci sta prendendo gusto, visto il successo di Alice in Wonderland. Ha già parlato del suo nuovo film che sarà La famiglia Addams, fatto in stop motion, quindi in personaggi, coi personaggi di plastilina, insomma come Nightmare Before Christmas, tanto per intenderci, e sarà girato a sua volta ancora in 3D, quindi sta già pensando al nuovo lavoro Tim Burton. Bene, siamo arrivati alla zona dedicata al cinema da vedere, rivedere, registrare o recuperare in casa propria, e cominciamo subito parlando con i colleghi della redazione di Film TV, che come sempre ogni settimana ci diciamo così selezionano una proposta in chiaro e gratuita, questo ci tengo sempre a specificarlo, dal palinsesto televisivo della settimana successiva. Sentiamo allora cosa ha scelto per noi questa volta Andrea Fornasiero. Ciao Andrea. Ciao Franco e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Da Film TV questa settimana vi segnaliamo venerdì 2 aprile in prima serata su Rete 4 alle 21.10 The Terminal di Steven Spielberg, una delle sue commedie più riuscite, con un finale spiazzante e con un grande Tom Hanks che interpreta Victor, proveniente dal paese immaginario della Cracovia, che si ritrova imprigionato per ragioni burocratiche in un aeroporto americano. Di fatto è un personaggio che non viene da una nazione esistente e si ritrova in un non luogo per eccellenza. Il personaggio di Victor appunto arriva da un regno immaginario, diciamo, parla con accenti a volte bulgari, ha una patente che pare quella della Bielorussia e quando canta un inno canta quello albanese, dunque nessun riferimento a un paese identificabile, anche se in realtà il film è ispirato alla storia vera di un iraniano che si è ritrovato bloccato in un aeroporto parigino per ben 18 anni. Il Victor di Spielberg invece ci rimane meno e l'aeroporto in cui si trova diventa una grande metafora dell'America, con un'immancabile storia d'amore con Catherine Zeta-Jones e un presidente non così magnanimo interpretato da Stanley Tucci. Inoltre c'è anche un ottimo rapporto con gli altri dipendenti dell'aeroporto che in qualche modo rappresentano le minoranze americane. Dunque è una commedia anche dal valore allegorico ed è sicuramente davvero tra le migliori di Spielberg. Per questa settimana è tutto, ancora un saluto da Film TV. E grazie allora Andrea Fornasier, un film che ho amato tantissimo, questo The Terminal di Steven Spielberg, uno straordinario Tom Hanks, un film che racconta tutti senza terra ed è una cosa veramente molto commovente. Ricordo ancora The Terminal sarà su Rete 4 venerdì 2 aprile alle ore 21.10. Siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del DVD Game di questa settimana, un grande capolavoro della storia del cinema da indovinare e vincere in Blu-ray. Ascoltiamo. Ma mangereste una carne così? Nessuno la vorrebbe mai, Gran Principe. Ecco perché sono venuto con voi a caccia, per rinforzare i nostri legami di amicizia. È vero. Anch'io vorrei rafforzare il legame che unisce le nostre due casate di Kimonji e di Ayabe. E anche qui, come dire, le terminologie usate ci portano verso il sollevante, insomma, abbiamo detto quasi tutto, un grande capolavoro di un grande maestro del sollevante, insomma, più di così. La Rosa Purpurea, @radio24.it, ammesso che ancora nessuno abbia indovinato e voglia provare a vincere il Blu-ray di questo straordinario film, chiaramente la soluzione verrà svelata la prossima settimana, così come stiamo facendo adesso con quella della settimana scorsa, col gioco della settimana scorsa, di cui vi avevamo proposto queste tracce. La sua vergogna è vergogna anche per noi. Già, è vero! Proprio così! Sì, ma francamente non mangerei alla stessa balla di fieno con lui. Io nemmeno. Nemmeno io, cara. Oh, no, davvero. Direi ben di no. Hai ragione, cara. Eccolo che viene. Si trattava di Dumbo, l'avete sentito forse anche nei titoli di testa, lo abbiamo già parzialmente svelato, capolavoro Disney che ha commosso intere generazioni e che arriva nello splendore del DVD e del Blu-ray con un restauro straordinario nei 70 anni dalla sua uscita. E allora i più bravi e veloci che si portano a casa l'edizione DVD doppio disco, veramente molto bella, di questo Dumbo sono Giampaolo Donelli di Montechiarugolo, provincia di Parma, e Melania Leoncini di Milano. Allora arriverà appunto questo straordinario prodotto Disney di cui parliamo con il nostro Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, è vero, in effetti si tratta di un'edizione straordinaria, come ormai è uso ci ha abituato la grande Disney, in questo caso 70° anniversario, edizione DVD e anche Blu-ray. La pellicola è stata restaurata, c'è questa versione in alta definizione che consegna definitivamente la storia, il suo gioiello disneyano del 41 con immagini superlative, c'è però comunque solidità e precisione dei particolari, grande pulizia e grandi colori per un risultato comunque eclatante anche su DVD. Tra l'altro ricordo che per l'audio è stata rielaborata anche per l'italiano l'originale colonna sonora monofonica attraverso un sistema proprietario di Disney molto interessante, insomma, che ha trasformato, insomma, questa vecchia colonna sonora in un adattamento molto interessante. Ci sono tanti extra, soprattutto per l'edizione Blu-ray, ricordo questa visione in esclusiva del film immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione, ma altri extra comunque presenti anche nel DVD, ci sono scene eliminate dietro le quinte. Ricordo che per l'edizione Blu-ray è incluso comunque nella confezione il DVD con la versione del film a definizione standard. E allora parliamo invece adesso di un'altra delle uscite di questi giorni, proprio nelle videoteche italiane. È un film che ha avuto anche un passaggio al cinema non di grandissima fortuna, ma questo sapete che spesso è relativo. Dice, ma il film l'ha incassato molto. Beh, insomma, questo non vuol dire assolutamente niente. In questo caso, nel paese delle creature selvagge, meritava sicuramente qualcosa di più. Certo, c'è una grossa differenza culturale rispetto alle nostre storie. Qui stiamo parlando di un film diretto da un regista di grande talento come Spike Jonze, con una storia che, pensate, è di pochissime frasi. Chi aveva visto il libro illustrato di Max Sendak, da cui il film prende praticamente l'intera storia, saprà che si tratta veramente di poche decine di frasi. E insomma, da questo trarre ovviamente un film, un lungometraggio, ce ne passa. Ma è un film di grandissima potenza visiva, e allora noi ascoltiamo questa clip. Che stai facendo? Io... sto dando una mano. Sfasciando le nostre case? Sono le vostre case. Sì? Perché? Cos'hanno? Le tue case come sono? Scommetto che sono strane. Senti, ci abbiamo lavorato sodo. Poi tu, signorino, sei arrivato a dare una mano. Ho freddo. Chi sei tu? Uno dei nuovi amici di KK? Oh, sei Bob o Terry? E io non so nemmeno chi sono. Sembra più un Bob. Qui siamo alla follia. Questo cosino è pericoloso. Mi spaventi. Sai come dico io? Se hai un problema, mangiatelo. Max ha 9 anni e vive un momento di difficoltà della sua vita. La sorella più grande e la madre non sono purtroppo in grado di dedicargli del tempo. I rimproveri e la sensazione di isolamento porteranno Max alla fuga da casa e raggiungerà, dopo un viaggio in barca, in barcavela, una misteriosa landa abitata da giganteschi mostri pelosi dal cuore d'oro, i quali, dopo l'iniziale smarrimento, come abbiamo sentito, lo incoroneranno loro re, illusi che il giovane possieda il potere di offrire una vita serena, senza contrasti. Dal famoso libricino di Sendak per bambini, appunto pochissime pagine che hanno creato notevoli problemi alla realizzazione di una sceneggiatura, che per la sua realizzazione ci sono voluti ben 7 anni di gestazione, e per un'opera che vince almeno in parte la sfida di dare vita a una favola con stemperati toni dark pervasa da un sottile velo di malinconia. Da Warner Home Video arriva l'edizione DVD, ma soprattutto quella Blu-ray. C'è un po' di grana osservabile nel film legata all'originale fotografia. Per il Blu-ray peccato per l'audio, che in italiano offre la sola traccia Dolby Digital, tra l'altro la stessa del DVD, che non può certo competere con l'originale inglese presente nel DVD ad alta risoluzione. Per gli extra, nel Blu-ray un adattamento live action del libro di Sendak, e comunque sono presenti 9 approfondimenti sulla lavorazione. E andiamo invece a un altro film, è stato un cult, insomma, per la mia generazione almeno, negli anni, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, Fame, Saranno famosi, è stata una grande serie televisiva, un film che abbiamo amato molto, e adesso è arrivato un sequel, inevitabilmente direi, anche perché quella storia di quei ragazzi che volevano diventare artisti è diventata di quella che vogliono diventare famosi in televisione. Guardate cosa è diventato tutto il mondo, appunto, dei talent show. E allora Fame, nella versione 2009, ascoltiamo la clip. Allora, al college studiavo teatro con passione, entusiasmo, ero lì felice e contenta, mi davo da fare. Poi mi sono laureata e sono arrivata nella grande città e ho cominciato a sbattermi in giro, a fare provini per qualunque cosa, ho fatto anche qualche comparsata. Giusto. Insomma, la gavetta. Non lo so, dopo un po' ho avuto forte la sensazione che non avrei avuto nessuno sbocco. Però volete sapere una cosa? Certe volte, quando vado a Broadway a vedere un musical, me ne sto seduta lì e penso, lo sai, potevo farlo quel ruolo. Alla High School of Performing Arts di New York cominciano le audizioni per selezionare i nuovi astri nascenti del mondo dello spettacolo. Nell'arco di 4 anni gli aspiranti cantanti, ballerini, attori, registi imparano l'arte e danno libero sfogo ai propri talenti, sognando ovviamente successo e condividendo affetti e paure. Il cult del regista Alan Parker, musicato da Michael Gore, raccontava all'epoca le inquietudini giovanili rilette attraverso la realtà suburbana di una New York tanto cara a Martin Scorsese. Del film di 30 anni fa, appunto, di Alan Parker, rimangono alcuni dei brani più belli, tra cui il famosissimo Out Here on My Own, cantata allora da Irene Cara, ma la rilettura qui è meno ambiziosa, anche se comunque sontuosamente realizzata. da Lucky Red, edizione singolo oppure doppio DVD. C'è anche il Blu-ray, per fortuna. Per la visione DVD ricordo la presenza della preziosa traccia audio DTS, capace di esaltare molto bene la coinvolgente colonna sonora. Il Blu-ray è sicuramente da privilegiarsi per l'eccellente risultato video, ma anche audio con tracce ad alta risoluzione. Stessi gli extra del DVD, tra cui segnalo uno speciale sulla realizzazione e scene eliminate. Grazie Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. A presto, un saluto. E allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, si chiude qui La Rosa Purpurea, torneremo a parlarvi di cinema il prossimo weekend, il weekend di Pasqua, un altro dei weekend di alta stagione cinematografica. Grazie per averci seguito, appuntamento a sabato alle 18, domenica in replica alle 15, qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.